questo. YouTube Social Village di Marta Cagnola. Oh, bentornati al nostro sabato pomeriggio pieno di spettacoli, di tendenze, di cose belle qui a Radio 24, come sempre con me, con Marta Cagnola, fino alle 18. Due ore, due appuntamenti diversi. Beh, insomma, la prima ora è quella di Social Village, la seconda ora è quella di Social Network. Nella seconda ora parleremo di tanta attualità della rete e dalla rete, ma avremo anche modo di scoprire qualcosa di curioso, di molto divertente. State con noi, ma nella prima ora, beh, c'è tutta l'attualità degli spettacoli e ci sono in questa prima ora un sacco di ospiti. Parleremo di comicità, parleremo di teatro, parleremo di serie TV, ma per cominciare partiamo con il cinema. Lei è Livia, bella, sexy e senza impegni. Non l'abbiamo mai fatto qui. Lei è Tina, sua sorella. Io una cosa volevo nella vita. Con una gran voglia di maternità. Non la posso temere. No, mica un gattino. Una femmina senza figli è una femmina a metà. Comunque io l'istinto materno non ce l'ho. Una collega dice che è rimasta incinta bevendo 10 uova ogni mattina. Quello era Rocky Balboa. Lei non può avere figli, ma li vuole. Tu non li vuoi, ma potresti partorire al posto suo. Io vengo qua per farmi pulire le tube e tu mi proponi di metterci dentro il figlio di mia sorella. Un sacco di ascoltatori mi rimproverano perché dicono: ah, ma tu parli sempre bene dei film. No, è esattamente l'opposto. Io se parlo di un film è perché mi è piaciuto e io mi sono così divertita a vedere questa commedia che si intitola 9 lune e mezza, un film di Michela Andreozzi, che è qui con noi. Ciao Michela. Allora, lo confesso, noi non ci siamo mai conosciute, però io ho sempre provato per Michela una simpatia proprio, non lo so, mi piace un sacco. È reciproca. Bello, bello. Allora, esordio alla regia. Ma chi ti ha fatto fare? Esatto. Esatto. La storia mi ha portato con sé. Ho detto: no, questa non la mollo, non la faccio girare a nessun altro. Allora, è dai, raccontami mia. Un pochino la storia e poi sveliamo chi c'è in studio con noi. È la storia di due sorelle, una realizzata in coppia con un lei musicista, lui osteopata, sono child free, e la sorella di questa Livia, la violoncellista, è una vigilessa urbana in coppia con un vigile urbano e che invece figli non ne hanno ma ne vorrebbero. E diciamo subito che le due sorelle siamo io e Claudia Gerini, così ti fa capire già il tenore dove stiamo andando a parare. Io faccio la vigilessa e Claudia Gerini fa la violoncellista. Lei è molto contenta, non vuole figli ma può averne. Io sono scontentissima, ne vorrei uno ma non posso né averlo né adottare, e quindi qui succede il patatrac. Qui c'è un'idea un po' bizzarra per cui sto figlio può arrivare a un certo punto. Tu hai detto che che tua sorella è Claudia Gerini? Uh-huh. Ma proprio l'attrice più richiesta proprio, del proprio, periodo? Proprio. No, abbiamo anche Claudia Gerini. Quella preferita Gerini. Di oggi in questa stanza. No, ciao, no Claudia, tutti, allora ciao. Questo è proprio il tuo momento. Come ti sei trovata a fare questa parte? Ragazzi, finalmente si ride un po' al si femminile. Si ride e poi ci si... c'è anche un po' di commozione, sicuramente una lacrimuccia ogni tanto è uscita. No, mi sono trovata molto bene, questo insomma, sono contenta di essere stata insomma un po' anche la musa dell'esordio, la regia di questa ragazza. Che bello, la musa, che una ne fa e 100 ne pensa, anzi 100 ne fa e 1000 ne pensa. E no, mi sono trovata bene, ci siamo, vabbè, parte molto divertita, era un gruppo di lavoro affiatato eccetera, e poi interpretare insomma questa donna così libera, così diciamo anche esuberante nel suo essere contenta. contenta, una musicista che fa tantissime tournée, libera, rock and roll, quest'animo comunque appunto indipendente. E però con questa sorella che praticamente si compensano, perché è una sorella diversa da lei, però c'è questo grande intesa, grande amore, eccetera. E loro appunto quasi non ce la fa a vederla così infelice, no? E addirittura poi succede un episodio, non possiamo svelare troppo, però insomma alla fine decide, e di fronte a questo ginecologo interpretato da Stefano Fresi, meraviglioso, che così un po' la butta là e dice: ma sarebbe perfetto se vi scambiaste i corpi e tu potessi fare un figlio per tua sorella. E allora rimane così un po' senza parole, però vedremo che dopo appunto un episodio un po' eclatante dice: va bene, facciamo questa cosa. E quindi ovviamente succederà appunto un impianto di ovulo io sono la portatrice della pancia, di questa pancia per due. Allora si sorride, ci si commuove appunto al femminile, però Michela, regista, qualche ometto ce l'hai dovuto mettere. Ma per esempio per esempio mio marito nella vita, che però dopo essersi divertito l'anno scorso in coppia con la Gerini a dance a piroettare, con chi l'hai messo in sposare coppia? No, ma non volevo vendicarmi, l'ho fatto sposare con Stefano Fresi, che è il ginecologo della coppia. Massimiliano è qui in questo Massimiliano momento, guarda malissimo. Parlate di me come se non fossi presente, vi prego. Ma prego. No, come se. Abbiamo già messo un bel po' di temi sul tavolo, perché appunto un utero prestato, non in affitto, non in vendita, prestato, la sorellanza e anche una coppia omogenitoriale, come si dice adesso. Io e Stefano Fresi rappresentiamo una realtà che a me, a Michela e a chi fa un po' questo nostro mestiere è abbastanza vicina, nel senso che conosciamo realmente delle coppie che hanno questa velleità o hanno questo problema, o che stanno affrontando questa avventura, o per che cui vivono già questa realtà con grande serenità. Noi ovviamente senza alcun giudizio, ma senza nemmeno la volontà di trovare una soluzione alla cosa o di scatenare una legislazione in questo senso, onestamente abbiamo riflettuto su quale poteva essere un rapporto di due persone che sono genitori entrambi di un bambino, ma uno è ufficialmente riconosciuto, l'altro deve ancora aspettare un iter per poterlo diventare, e quindi quale può essere l'intimità anche tra due persone che hanno comunque un potere diverso di fronte alle persone. Poi tra loro i figli sono due papà di due bambini straordinari, molto belli, carini, e tutti e due ovviamente hanno le stesse funzioni all'interno della coppia, ma fuori sono visti in maniera diversa. E quindi noi ci siamo detti: rappresentiamo questa cosa uscendo un po' dagli stereotipi, onestamente, no? senza spingere, sì. Insomma, vivendoli esattamente come io e Stefano viviamo le nostre storie d'amore, cercando di rappresentarle, di non sfruttarle. Che bella c'è la famiglia Arcobaleno, c'è una donna che è bella, carina, accogliente, femminile anche senza avere figli, e che quindi però, siccome questo nel cinema italiano mi sa che non c'era mai stato ancora un personaggio che liberamente e tranquillamente dice: ma io non ho il senso materno. E anche basta. Perché nel film si dice che una donna può essere madre sia se fa un figlio, sia se fa una canzone, sia se fa una torta, cioè l'essere madri delle donne passa per tante vie. Allora, siamo costretti in questo paese, io volevo raccontare le donne di oggi con i miei cosceneggiatori Alessia Crocini, fondamentale, Fabio Morici, e volevamo raccontare le donne di oggi, a che punto sono arrivate. È impossibile raccontare una donna senza raccontare il suo rapporto con la maternità, perché questo è un paese dove ti dicono: una donna senza figli è una donna a metà. Senza figli non puoi capire, tu non puoi capire la vita, e forse tu non puoi capire la mia. Essendo io una donna senza figli, quindi io ho proiettato il mio essere senza figli nel talento di Claudia Gerini, che mi ha interpretato meglio, molto meglio di come io sono nella vita, è successo che comunque noi dovevamo per forza interagire con questo tema della maternità. Quello che tu hai citato prima è il discorso che fa Paola Tiziana Cruciani, che è l'ostetrica. Alla fine del film arriva ovviamente un'ostetrica che secondo me ha fatto un lavoro bellissimo, ma che esprime esattamente quello che io, Michela, penso. Quello è proprio il mio pensiero. Cioè, le donne sono madri sempre, quando si prendono cura degli altri, quando la femminilità e la maternità per me sono la stessa cosa, anche se non hai un figlio. Sono d'accordo, beh, insomma, poi Claudia ha fatto quella che non voleva fare i figli e l'attrice che invece ha i figli, quindi insomma anche questo è bello del mestiere dell'attore. Però la frase topica che secondo me ci dobbiamo tatuare proprio tutti è: la via della felicità è lastricata di vaffanculo. Abbiamo fatto detto un cosa, cioè bisogna ribellarsi ogni tanto. Il meglio di Saggerini poteva dire questa cosa. Perché Massimiliano? Non ci avete mai ballato insieme? No, vabbè, anzi, adesso che sono diventata un po' più matura, lo sto imparando ancora di più a non compiacere, anche a non per forza mettere tutti d'accordo. Questo si impara un po' con l'esperienza, no? Quindi dire, vabbè, non sei d'accordo con me, non ti piaccio, non mi vuoi, vaffanculo. Oh, che meraviglia! Detto, alla fine l'hai detto. A quel paese, sapessi quanta gente ce l'hanno insegnato. Già, il cinema ce l'ha insegnato. Allora, io parlo bene solo dei film che mi piacciono. Anzi, parlo solo dei film che mi piacciono. Di quelli che non ti piacciono, ma non parli. No, c'è poco tempo. La vita è un lampo e dedichiamoci alle cose che ci sono piaciute. A me è piaciuto un sacco. 9:30. Grazie, ragazzi. Grazie a te, grazie veramente. Andiamo per la nostra via della felicità. Che è lastricata di. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta. RadioTube Social Village. Allora ragazzi, noi che teniamo d'occhio tutte le tendenze, lo facciamo ormai da anni anche per quanto riguarda lo spettacolo, perché insomma ci sono dei filoni che appassionano il pubblico e io direi che questo è assolutamente l'autunno dei musical. Non è una novità, perché qualche anno che finalmente i musical hanno cominciato a prendere piede anche in Italia. Un tempo si andava a Londra e tutti dicevano: ah, ma a Londra, sapete, ci sono un sacco di musical. Ecco, anche qua i musical sono un genere di grandissimo successo. Allora, io ho qua sparsi davanti a me in studio un sacco di comunicati. Allora, dal 24 ottobre a Milano agli Arcimboldi c'è il Rocky Horror Show con Claudio Bisio. E poi abbiamo un Elvis the Musical. Andiamo a prendere il foglietto dal 10 al 15 ottobre, è stato in questi giorni, è in questi giorni fino a domani dunque a Milano al Teatro Nuovo. E poi ancora qui Mary Poppins al Teatro Nazionale che Banca di Milano dal 13 febbraio 2018. A Roma aggiungi un posto a tavola, Grease, The Bodyguard, Mamma Mia, Madagascar, La Regina di Ghiaccio, Turandot con Lorella Cuccarini, potrei andare avanti moltissimo. Addirittura a Bologna da novembre andrà a Roma, Verona, Cremona e Milano, c'è il musical dello Zecchino d'Oro, quindi ragazzi ce n'è per tutti i gusti, però non c'è niente da fare, ce n'è uno che è davvero davvero nei nostri cuori. Dire Flashdance, quanto abbiamo amato il film noi che l'abbiamo visto da piccoli oppure che l'abbiamo visto in televisione, se quando è uscito non eravamo ancora nate. No, io c'ero già, ero piccina, ma c'ero. Un film che davvero ha lasciato talmente tanto il segno che ultimamente se ne parla molto e io sono molto contenta di parlare di questo Flashdance, il musical che in questi giorni sta facendo veramente veramente furore a Milano al Teatro Nazionale Checkbank. Sono molto contenta di parlare con chi l'ha tradotto, l'ha adattato, lo cura, lo dirige, Chiara Noschese. Buongiorno Chiara! Buongiorno a tutti. Lo cura, ciao. Lo dirige, lo coccola, non so più cosa dire, insomma, l'hai preso per mano fin dall'inizio e com'è questo Flashdance, questa avventura? Ma guarda, io in questo momento sono felicissima perché il pubblico di Milano lo sta scegliendo e quindi non c'è gioia più grande che possa ripagare il lavoro che ho fatto. Mi ha un po' vampirizzato questo musical. Da quanto tempo ci lavori, cioè quanto tempo ci vuole per organizzare una macchina del genere? 6 mesi almeno. Accidenti. Da quando poi viene pensato ancora prima, poi quando inizi a realizzarlo, poi io ho dovuto lavorare tanto all'adattamento, alla traduzione, quindi anche quello mi ha portato via tanto tempo. Poi i costumi, la scenografia, le luci, la musica, trovare il cast giusto, il cast che è la cosa più a cui bisogna stare più attenti, ecco, perché se sbagli il cast hai sbagliato tutto praticamente. No, anche perché poi Flashdance aveva un'attrice così iconica, così che cioè uno vuole riconoscere un po' quello che ha visto e quello che si ricorda di Flashdance, del film, no? Sì, il pubblico lo vuole rivedere, vuole riconoscere, però poi secondo me piano piano si affeziona a quello che sta guardando, certo. E parte per quel viaggio e si affeziona a quel viaggio. È un periodo in cui Flashdance ritorna, perché non so se hai visto o ti hanno raccontato del film dei Manetti Bros, Amore e Malavita, c'è sì. Una scena proprio con What a Feeling. Come mai Flashdance è nei nostri cuori? Flashdance secondo me ha segnato un'epoca per tanti motivi. Primo, perché non si era mai visto un film allora che proponesse dentro al film tanti videoclip. E poi c'era una storia che parlava di un sogno, e quando si parla di sogni ci tremano tutti le ginocchia, perché il sogno che ognuno di noi ha rappresenta un po' la missione della propria vita. E quindi sai, quando lei, che è una ragazza molto 2.0 adesso, cioè per me lei è una figura modernissima, cioè una ragazza che si è fatta da sola, che sta lì, che combatte, che lavora in un mondo di uomini, che si basta, diciamo. Ed è lì che cerca di realizzare questo sogno, non riesce a capire se ha il coraggio per farlo oppure no, non si sente adatta, ecco. Secondo me questo capita anche a molti di noi, anche i ragazzi che ora vivono in quest'epoca così nervosa, riuscire o no a realizzare quello per cui si sente una vocazione, ecco. Vero, vero. Poi ci fa davvero pensare che con l'impegno, con la tenacia, i sogni siano a portata di mano. E anche se non è così, non è sempre così, per una sera a teatro è bello poterlo credere. Grazie a Chiara Noschese. Appunto, Flashdance ora è a Milano, ma immagino che poi viaggerà davvero a lungo. Grazie Chiara per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie mille. Grazie ancora a Chiara Noschese. Noi adesso partiamo, anche noi, come farà Flashdance dopo Milano, perché abbiamo il nostro appuntamento con i viaggi. Radio 24 e Touring Club Italiano presentano Passaggio in Italia, alla ricerca dei luoghi da scoprire. Iddio, dopo aver creato il mondo, trovò che gli era rimasta ancora una grande quantità di sassi e, non sapendo in che modo distribuirli sulla terra, li chiuse in un sacco enorme con l'intenzione di gettarli in mare. Il diavolo, accortosi della cosa, s'appiattò presso alla riva e di nascosto fece un buco nel sacco. Dio scorse per tempo il guastamestieri e con lo stesso sacco lo seppellì sotto le pietre. Così rimasero sul carso le pietre e sotto di esse il diavolo. Ancora oggi, egli urla e fischia, dando vita alla gelida bora d'inverno. E anche in questa puntata di RadioTube siamo pronti a partire. L'avete riconosciuto, è un frammento delle nostre radioguide sul sito di Radio 24 e anche sul sito del Touring Club Italiano. E quindi è il momento di fare un viaggio insieme alla nostra Annarita D'Ambrosio. Ciao Annarita! Salve a tutti! Dove andiamo questa settimana? Un posto molto bello, molto affascinante, per parlare di un'iniziativa altrettanto affascinante. La nostra radioguida, che vi invitiamo a scaricare, è dedicata al Carso, il Carso triestino ed istriano, comuni meravigliosi, e vicino Trieste la grotta gigante di Trieste, che è un posto straordinario che ho scoperto grazie alla radioguida e dove voglio andare assolutamente. Ah, certo. Però Marta, noi parliamo anche di un'iniziativa che ci parla di un turismo culturale e scientifico molto bello. L'iniziativa parte domani, dura fino al 22, è la settimana del pianeta Terra, l'Italia alla scoperta delle geoscienze. Una società più informata e una società più coinvolta. Una manifestazione interessantissima. Ottima iniziativa. Noi abbiamo un ospite che ci spiega poi i dettagli di questa iniziativa, Silvio Seno, docente di geologia strutturale all'Università di Pavia e corresponsabile insieme al professor Coccioni del Festival. Salve! Buongiorno, buongiorno professore! Allora, la cultura scientifica non è facilissima da diffondere, però voi lo fate da tanto tempo e riuscite a coinvolgere tantissime persone. Sì, devo dire che questa è la quinta edizione della settimana del pianeta Terra, che ha proprio l'obiettivo di trasmettere un po' di scienza, ma in modo divertente, semplice, non noioso, non cupo. Ecco, anche se i temi sono importanti, sono i temi che riguardano appunto il nostro pianeta, e l'Italia è un bello spaccato del pianeta Terra. Professor Seno, immagino un coinvolgimento anche giovane. E noi puntiamo molto sulle giovani generazioni, molti degli eventi, che sono più di 200 in tutta Italia in questa settimana che comincia domani, sono proprio dedicati ai giovani, da quelli proprio delle elementari, se non dell'asilo, fino a quelli delle scuole superiori e anche oltre, anche ai giovani adulti, ecco, poi arriviamo anche lì. Certo, la manifestazione com'è nata? Beh, è nata dall'idea appunto che noi dobbiamo fare ognuno il suo per il proprio paese. Abbiamo tante belle cose a disposizione, abbiamo vulcani, abbiamo fiumi, coste magnifiche e anche tante persone che si dedicano a preservarle, a studiarle, anche aiutarci a ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici. Ecco, questo, l'idea quindi era di mettere in rete tutte queste opportunità e mostrarle, attraendo il grande pubblico, in una settimana di ottobre. E quello che noi vogliamo lasciare è un messaggio di interesse alle scienze prima di tutto e di attenzione anche al nostro pianeta, sempre molto divertente, molto, come dire, coinvolgente, non con delle lezioni, ecco, no, quello no. Culturale sensibile ai valori dell'ambiente, possiamo dire? Possiamo dire proprio così, possiamo dire proprio così. Tanti eventi, per esempio, sono legati all'acqua, che è uno dei beni che sono anche più oggetto di pressione. Vogliamo dire come fare ai nostri ascoltatori per scoprire, se si trovano in qualunque regione italiana, gli eventi di questa settimana? C'è un sito, immagino. La cosa più semplice appunto è andare sul sito della settimana, che si chiama settimanaterra.org. Sono 204 eventi, 170 località in tutta Italia, e quindi ce n'è qualcheduno sicuro a casa o vicino a casa accanto degli ascoltatori. Sì. Grazie al professor Seno e grazie per questa bellissima iniziativa, Marta, della settimana del pianeta Terra. Un paese straordinario, l'Italia, anche sotto questi aspetti meno conosciuti, e che dei quali secondo me è fondamentale e bello parlare, vero? Infatti, ad esempio, questo luogo che ci hai citato sul Carso è qualcosa che a me era sfuggito, non ne conoscevo l'esistenza. Vado a scaricarmi la radioguida. Lo devi fare subito, perché questa puntata della radioguida io francamente la trovo straordinaria, quindi io stessa ho imparato tantissime cose. La radioguida di Radio 24 e del Touring Club sul Carso e sulle meraviglie anche meno conosciute del nostro paese. Grazie Narita, al prossimo sabato. Grazie a voi. Radio Tube Social Village. Cosa vi siete persi nella prima mezz'ora del nostro Social Village? Abbiamo parlato di cinema con 9:30, un sacco di ospiti, veramente abbiamo iniziato, come si suol dire, col botto. C'era un sacco di gente insieme a noi, ma non abbiamo finito, perché lo studio è ancora molto affollato. Abbiamo parlato di musical, perché c'è questo Flashdance che sta facendo furore, ma non solo. Abbiamo parlato di viaggi, adesso, ancora con un sacco di ospiti, è il momento di parlare di una serie TV. Roma non si governa, al massimo si amministra. Non si fermano davanti a niente. Tutta Roma è zona mia. Attento a far scoppiare la guerra. La perdi. Io voglio ammazzare tutti. Che cazzo hai fatto? Era attesissimo. Sono i 10 episodi di Suburra, finalmente, su Netflix. Lo aspettavamo moltissimo. Allora, facciamo un passo indietro. Vi ricordate il film di Stefano Sollima, tratto dal romanzo omonimo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini? Beh, insomma, aveva fatto un certo rumore quel film. Adesso è arrivata Suburra, la serie, e ne parliamo. Io sono molto molto molto contenta. Che peccato che siamo alla radio, perché sono anche due bellissimi ragazzi, ma purtroppo non ve li posso mostrare. Andiamo in ordine alfabetico, sia di personaggio che di attore. Giacomo Ferrara, Alberto Anacleti. Ciao a tutti. E Filippo Nigro, Amedeo Cinaglia, no? Ecco, ciao, allora ciao. Sì, è proprio ordine alfabetico senza... No, assolutamente. Senza... Allora, Giacomo, sì. Questo intreccio tra potere, chiesa, malavita, è un libro che aveva preceduto la realtà, aveva preceduto la cronaca. Il tuo personaggio è un personaggio che ritroviamo sì. in un, quello che si chiama un prequel, cioè andiamo alle origini del tuo personaggio. Esatto, intanto. Siamo nel 2008, quindi all'incirca 3 anni prima di quelli che sono i fatti poi raccontati anche nel film. E sì, nel film, diciamo, il mio personaggio, come si suol dire, scompariva per motivi, ovvero una bella coltellata di numero 8 al collo. Esatto. No, spariva perché poi dovevano succedere tutte le cose, no? Certo. Invece qui siamo 3 anni prima e c'è la possibilità di raccontare di più in 10 episodi un personaggio che ha tante tante sfumature. Io mi ero segnata il nome perché non mi ricordavo nome e cognome, Alberto Anacleti, sì, ma era Spadino. Perché poi esce più Spadino, perché però esce... Alberto Anacleti, sì, sì, sì. Anche bello. E invece per Filippo Nigro è un personaggio nuovo, Amedeo Cinaglia. Sì, Amedeo Cinaglia, non c'era questa figura nel film. Nel film c'era la parte politica con il grande Favino, e qui invece la parte di politica che si analizza è quella dell'amministrazione comunale di una città, quella di Roma, che insomma... è piuttosto problematica in assoluto, una città difficile da amministrare nella realtà, perché è dire difficile quasi un eufemismo. È difficile un eufemismo, e in questo caso è interessante, diciamo, partire da quel punto lì, dal punto di vista del personaggio, perché chiaramente nel municipio, diciamo, della capitale, e il concetto probabilmente è che i personaggi possano essere più, diciamo, facilmente attaccabili o comunque scalfibili da un punto di vista chiaramente in questo racconto di funzione. Cioè il male può catturarli più facilmente. Sì, no, oppure non so, c'è un seme di corruttibilità in ognuno di noi, insomma, e quindi, diciamo, questo personaggio che è molto affranto, afflitto, distrutto, devastato, non riconosciuto dal partito, dall'ex moglie, che è invece una politica molto importante, e, insomma, in lui scatta qualcosa. Non è un cattivo, e dai primi episodi, anzi, diciamo, si riconosce chiaramente un percorso addirittura ideologico, qualcuno che comunque ha avuto un percorso in cui credeva a qualcosa, no? E fatto di ideali, è una cosa che gli viene rinfacciata a volte dalla moglie e in alcuni ambienti, e che poi lentamente, diciamo, realizza delle situazioni e si trova a essere valorizzato, tra virgolette, dalla criminalità, dalla figura di samurai, del grande Francesco Acquaroli, che la interpreta. E infatti noi spesso ci chiediamo come si possa essere sedotti dal male o dal... Un po' il tuo personaggio ci fa capire che a volte anche, sai, un tempo si diceva l'occasione fa l'uomo ladro, in questo caso una serie di occasioni rendono una, sì, brava persona un po' debole. Ma è bello in assoluto nei racconti, in letteratura, proprio ogni figura. Mi viene in mente anche un film di Cronenberg bellissimo che si chiama Il seme della violenza, cioè che c'è qualcosa dentro di noi, no? In assoluto, quindi di corruttibile oppure di violento, a seconda della fragilità del momento può uscire fuori, a seconda della morale, della struttura proprio totale, dell'educazione sentimentale, se vuoi, della persona, questa cosa potrebbe manifestarsi oppure può non manifestarsi mai per tutta la vita, no? Come fosse, è brutto da dire, ma insomma, quasi una malattia, non so. Sì, qualcosa, sì, latente in noi. Esatto. Ma in generale io credo che comunque il suo personaggio è quello di Edoardo Valdarnini, che l'altro attore che fa Gabriele Marchilli, Lele, sono quelli che, diciamo, hanno più, si vede più di netto questo cambio all'interno della serie, no? E vedremo poi come andrà a finire, non spoileriamo niente. Non spoileriamo niente. Però anche per quanto riguarda il personaggio di Claudio, il mio, c'è una corruzione di tutti i personaggi lì, nel mentre, nelle scelte che si fanno, che poi nel nostro caso sono più criminali, però c'è anche un lato umano molto forte in tutti i personaggi. Io quando ho visto arrivare Giacomo Ferrara ho detto, no, fisicamente è un po' diverso da Spadino, perché Spadino è uno particolare come aspetto fisico. Poi lì abbiamo giocato molto anche su curare un determinato look, quindi con Sharin Sabatini e Enrico Jacoboni sia sul trucco che sul parrucco, con Veronica Fragola dei costumi, insomma lì si è andato molto a caratterizzare il mio personaggio e quello fa tanto. Poi certo. Sicuramente poi la lingua è una lingua impensabile da imparare. Come hai fatto? Ma in realtà io sono quello che la parla meno, perché c'è stata proprio una scelta a livello di sceneggiatura per il mio personaggio che ne parlasse meno, ma in generale un po' tutti i giovani parlano meno. Però c'era un dialogue coach con noi sul set e quando si trattava di parlare questa lingua ci diceva come dovevamo dire, insomma. Cioè tu sei passato dall'abruzzese al sinti, al romano. Sì, ci sono stati questo gioco, no? Un po' il romano, un po' questo simile abruzzese, perché non è proprio un abruzzese, perché è una via di mezzo. Io ho giocato sul fatto che pensato, magari con la madre e il padre parla in un modo, magari non vuole parlare sinti, però c'è una cadenza diversa, quando è fuori parla romano, quando invece parla sinti. Qui capiamo un po' di segreti del mestiere dell'attore. Ti fai tante domande, no? Nel senso, come ti puoi rapportare a differenza dei personaggi che incontri. In questi casi però, quando appare sui giornali una serie che tratta di questi temi, un film che tratta di questi temi, c'è sempre qualcuno che protesta e dice però all'estero portiamo solo una certa Italia. Tra l'altro ho letto che Suburra è disponibile con i sottotitoli inglesi in 190 paesi e quindi insomma, qualcuno lo vedrà fuori dall'Italia. Voi cosa rispondete da attori a questa cosa, a chi dice si esporta solo una certa Italia? Io non sono pienamente d'accordo. Secondo me si deve fare un discorso di qualità di un progetto. Se è un progetto di qualità, ben venga che venga esportato e se ne faccia parlare bene oltre confini nazionali. Poi di possibilità speriamo ce ne siano altre, raccontare tante altre storie, però noi quello che volevamo fare era un prodotto di qualità prima che di raccontare solo una storia di criminalità, e penso quello che sia uscito poi è questo, più che raccontare la Roma criminale. E poi c'è un po' sempre la presunzione di rappresentarsi come un po', cioè, voglio dire, sì, esportiamo molto di quello che c'è. È vero che c'è tanto di diverso e tante cose belle, però ci sono tante cose che realmente l'altro giorno leggevo, non so se Camilleri c'era scritto sul giornale, italiani brava gente, dice, ma che siamo un popolo di razzisti, a proposito dello Ius Soli, per dire. Cioè, nel senso, ci sono tante cose, insomma, discutibili, e qui in fondo non è che è romanzato, è molto diverso dalla realtà, ma anche molto simile. Noi italiani siamo sempre stati bravi a raccontare questi temi, però le serie non era tanto il nostro, invece sappiamo fare anche le serie. Sì, diciamo che la qualità delle serie in questi ultimi anni sta crescendo, come anche il cinema italiano sforna bellissimi prodotti, la qualità delle serie in tutto il mondo sta crescendo ultimamente, si stanno facendo più serie TV che sono come i film al cinema, la qualità è quella, si fanno serie con quella qualità. I tecnici soprattutto che lavorano dietro sono tecnici che vengono dal cinema, quindi c'è una qualità superiore rispetto, c'è molta più ricerca, accuratezza nei dettagli. Voi per Suburra cosa consigliate? Binge watching, cioè maratona, o una alla volta? Beh, secondo me Suburra richiede il binge watching. Io sono un po' di parte, io guardo tutto in binge watching, quindi faccio un po', non so, però secondo me sì, è una produzione che poi ti porta a fare quello, dopo un episodio vuoi vedere un altro. Filippo? La natura di Netflix, il segreto è proprio, comunque quando una serie funziona, lo vedo su altre serie che io vedo, non riesce a far passare, se non dico che te la vedi in due notti, ma in genere non passa mai troppo tempo tra un episodio e l'altro. Però io dico semplicemente guardatevela, nel senso, non importa se un episodio alla volta o tutti insieme, nel senso che alla fine secondo me il racconto, cioè anche in questa serie, cioè, è un racconto che ti acchiappa, ti prende parecchio, insomma è difficile, diciamo, distanziare un episodio dall'altro, almeno sì, esatto, pure noi rivedendola per altri motivi, insomma ce la siamo divorata rapidamente, insomma è così. E viva gli investimenti internazionali nelle serie italiane e le produzioni italiane. Questo speriamo sempre di più. Grazie, grazie a Giacomo Ferrara e a Filippo Nigro. Grazie, grazie, grazie ragazzi. Grazie a voi. Allora, buona maratona a tutti con Suburra. Sì. Buona maratona, ciao. Ciao. Radio Tube Social Village. La gente ci siamo stufati. Noi non ne parliamo più di questi politici che fanno questi discorsi che non si capisce la tac tac di snocciolare le problematiche. Bisogna arrivare e questo è niente, cioè. Allora, cosa sono? Invorniti che non capiscono quello che dico! Allora, invorniti di te! Cosa vuol dire invornito? Invornito è quanto uno che non riesce a parlare di... Io sono molto contenta di parlare di comicità, perché secondo me in questo momento più che mai c'è bisogno di ridere, anzi ci fa davvero bene, ma secondo me proprio fisicamente. Lui è uno dei miei comici preferiti, mica mi fanno ridere tutti, lui sì un sacco, l'ho intercettato perché in questo periodo è un po' in giro per il nord Italia, ma non solo, perché ha un sacco di date, io l'ho visto nei giorni scorsi al Manzoni di Milano, sono molto contenta di avere a Radio Tube Paolo Cevoli, ciao Paolo. Ciao Marta, ciao, grazie, mi hai fatto troppi complimenti, adesso cosa? No, vabbè, glieli ho fatti anche fuori onda perché Paolo porta in scena in questo periodo un testo davvero spericolato, perché si è messo a fare un'esegesi biblica, la Bibbia raccontata da Paolo Cevoli, una roba da pazzi. Ho esagerato, forse non dovevo. No, dovevo. È una roba da pazzi, detto tra noi, però è un testo serissimo, con delle fonti molto serie e che fa sbellicare da ridere. Come ti è venuta l'idea? Ma guarda, diciamo che sono stati soprattutto Daniele Sala, il mio regista, e Roberto Gemelli, il mio manager, perché avevo fatto degli spettacoli precedenti in cui trattavo anche dei temi sacri, come per esempio quando ho fatto la storia del garzone di Michelangelo e il cuoco dell'ultima cena, e loro mi hanno detto dai, fai, arrischiati, parla della Bibbia. Mi è sempre piaciuto usare il meccanismo della navicella del tempo e dello spazio per andare indietro e vestire panni di persone che si trovavano, e questa volta ho detto andiamo indietro, più indietro di così non si può, e stavolta cominciamo da Adamo ed Eva. Cioè cominci da Adamo ed Eva e da Pupo. Da Pupo, sì, e questa da Pupo è la verità. Perché ci sono dei legami profondi. E poi si torna sempre però alla Romagna, perché ci sono tanti personaggi della Bibbia che in realtà sotto sotto potrebbero essere romagnoli. Sì. Anzi, io sostengo che probabilmente quando Adamo ed Eva sono andati via dal paradiso terrestre sono venuti in Romagna, perché più bella della Romagna non c'è niente. Allora, dove ci trasferiamo potendo scegliere? La Romagna. Paolo, ti vengono a vedere molte persone che ti hanno conosciuto tramite la TV, tramite i tuoi personaggi. Che effetto ti fa portare la gente a teatro? Ma devo dire che mi dà gusto, perché il teatro, allora, io la televisione mi è piaciuta, Zelig mi piace, io devo dirti la verità, non l'ho mai vista tanto, perché prima di fare il comico facevo il ristoratore, l'albergatore, quindi televisione poca. Sono andato a Zelig, che praticamente non l'avevo mai visto nel 2002. Diciamo che a casa mia il focolare domestico è la fettatrice, il nostro, vabbè. Noi buttiamo su del prosciutto, del salame, infatti tali. Il più grosso conflitto con la cultura ebraica è proprio il maiale, è l'insaccato. Il principe dell'universo. Sì, devo dire, qual era la domanda che mi ho perso? A parlare di maiale. No, che porti la gente a teatro. Magari la gente che non è mai stata a teatro o che lo vede così lontano, invece dice: ah, c'è Paolo Cevoli, andiamo. Magari questa cosa qui mi farebbe piacere, perché il teatro è un grande avvenimento, andare a teatro. Paolo, vieni dall'albergo, dalla, sì, ristorazione. C'è un punto di contatto tra il dar da mangiare alle persone e farle ridere? Ma diciamo che sono due mestieri simili, perché hanno come scopo quello di dare un po' di felicità, forse un po' di proprio felicità, magari forse un po' esagerata, però di leggerezza, perché io vengo dalla sala, il mio mestiere non sono capace di fare niente in cucina. Ah no, in cucina. Io sono sempre nasco cameriere nella pensione Cinzia, sempre un frontman. E questa cosa qui è il frontman della pensione Cinzia, mica poco. Fra l'altro devo dire che mio fratello e un altro nostro amico, mio fratello è rimasto ancora nella Riccione, lui è direttore dell'associazione degli albergatori, anzi saluto tutti i colleghi degli alberghi, della Federalberghi grandi. E il mestiere devo dire non è, a proposito di cose, non hanno funzionato, se qualche volta hanno fatto cilecca, per esempio quella volta che San Giuseppe e la Madonna, che lei porina era incinta, non gli hanno trovato una camera, porca vigliaca, ma scusa, ma solo che magari la Madonna partorisce nella tua pensione, nel tuo hotel, sai metterlo sul Depliant, e invece quella volta non gli, purtroppo erano in overbooking e gli ha detto non c'è non posto, erano in Romagna, e perché in Romagna gliel'avrebbero trovato il posto, sarebbero andati a dormire nel garage piuttosto i titolari e lasciavano il loro letto matrimoniale, come faceva il mio babbo e la mia mamma. Ma che meraviglia. Quella volta si faceva così. Allora, questa sera sei a Lonigo in provincia di Vicenza, poi tu hai date fino a maggio, fino al 12 maggio 18. Eh sì, hai visto che roba. Ma incredibile, per forza adesso devi fare l'imprenditore per hobby, perché fino al 12 maggio... Poi tournée internazionale, perché si chiude a Lugano. Visto che roba, ma vado anche a San Marino, quindi... Vabbè, allora tournée europea. Se mi chiamano anche in Vaticano sono posto. Il Vaticano sulla Bibbia mi piacerebbe, fra l'altro. Beh, insomma, ci starebbe, anche perché davvero non c'è, cioè è veramente un'esegesi serissima. Ci sono un sacco di parolacce. Tanto ride. E vabbè, quello è vero, quello hai ragione, qualche parolaccina c'è. Qualche cosa c'è, Io davvero vi consiglio di guardare paolocevoli.com, che è il tuo sito, c'è tutto l'elenco delle date, perché se passa vicino a casa vostra, io non me lo perderei, perché io ci sono andata e a un certo punto ho cominciato a piangermi l'occhio sinistro dal ridere, quello destro no, quello sinistro piangeva e mi sono sciolta tutto il trucco in faccia. Porca, ma ho riso un sacco. Fa bene ridere, hai ragione. Fa bene la salute. Si smuove una cosa dentro, che è il cortisolo, che ti dà tanta, ti rilassa, no? Dà energia positiva. È come il sole. Quando c'è il sole, 24 ore, siamo qui, o anche 12, chi se ne frega, le cose sono più belle, no? Oggi verissimo. È una giornata bella, c'è il sole, mamma mia che bello, sarebbe da andare in Romagna. Una risata sarebbe perfetta e anche un giro in Romagna. Grazie Paolo Cevoli, grazie Paolo. Grazie Marta, grazie a voi tutti, ciao. Grazie a Paolo Cevoli per essere stato con noi. È il momento di dare la linea subito al giornale radio delle 17. Noi ci ritroviamo tra poco con la seconda ora del nostro RadioTube, che si trasforma in RadioTube Social Network. A tra poco.